Bene, allora buonasera, benvenute e benvenuti a tutti quanti. Questa biblioteca organizza settimanalmente degli incontri, dei dibattiti e questa sera abbiamo accolto l'invito di Pritam Ftiu, ancora in estate, ci ha chiesto se eravamo interessati a proiettare un documentario che ci ha subito incuriosito. Sappiamo che è stato presentato a Trieste tempo fa, ancora con la traduzione in inglese, e questa sera abbiamo i sottotitoli in italiano, quindi anche, c'è anche una volontà non solo di proporlo all'associazione, ai membri dell'associazione della comunità albanese, ma anche e soprattutto a tutta la cittadinanza per far conoscere una parte della storia che ci accomuna, ma che anche distingue insomma, i vari paesi come si sono comportati nella Seconda Guerra Mondiale. Ringrazio Isabella Rossi Neuhofer, presidente della comunità ebraica di Merano, che è qui con noi questa sera, prenderà parte anche lei al dibattito che si creerà, la presentazione. Ringrazio anche Salomone Bordon, che è qui con la signora. Ringrazio tutti voi di aver accolto il nostro invito. E questa biblioteca si pone l'obiettivo, attraverso queste iniziative, di far nascere sempre più interessi nelle persone affinché poi tornino in biblioteca, leggano, utilizzino anche questi libri, questi documenti che noi raccogliamo per così crearsi un proprio percorso delle proprie idee, delle proprie opinioni. Quindi benvenga ogni suggerimento che ci arriva dai vari partner che abbiamo nella società e che vedo sono sempre generosi nel coinvolgerci e nel darci dei nuovi suggerimenti. Sulle sedie trovate un piccolo opuscolo che descrive le attività che stiamo svolgendo e i servizi che offriamo gratuitamente, così come anche un modulo di iscrizione. Chi ha piacere di iscriversi è assolutamente gratuito, non rilasciamo tessere aggiuntive, per cui è semplicemente una registrazione che facciamo per poi potervi far accedere ai servizi e soprattutto comunicarvi tempestivamente via mail o con la semplice cartolina quelle che sono le nostre iniziative. Ne approfitto anche per segnalarvi che giovedì, il 18 ottobre, ci sarà anche la presentazione di un libro di filosofia, epistemologia dell'intercultura, la costruzione culturale della realtà. E poi così, insomma, il 22 ottobre ci sarà un'altra iniziativa. Se seguite il nostro calendario, ecco, troverete alcune cose che possono interessare, insomma, più pubblici. Di solito, ecco, chiediamo così di aderire, di iscrivervi, che non ha costi, proprio per riuscire ad avere un pubblico sempre più vasto e per far accedere sempre più persone a questi servizi. Vi ringrazio della vostra adesione e vi cedo subito la parola al presidente dell'associazione della comunità albanese qui a Bolzano. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per la partecipazione. Volevo ricordare anch'io che insomma, questa attività che stiamo facendo in collaborazione con la Biblioteca Claudio Augusta è praticamente la prima di una serie di attività, perché quest'anno ricorre anche il centenario della fondazione dello Stato d'Albania e perciò insomma, in Albania ovviamente ci sono dei grossi festeggiamenti e preparazioni, perché è il 28 di novembre insomma, il giorno della ricorrenza, e noi qua nel nostro piccolo stiamo cercando di fare quello che possiamo. Abbiamo ritenuto giusto di sottolineare momenti importanti della nostra storia, ma soprattutto di mettere a risalto anche quei momenti dove insomma, io penso che questa che vedremo oggi è una di quelle cose che con orgoglio possiamo dire che possiamo insegnare qualcosa al mondo, pur essendo una nazione piccola insomma, dal punto di vista sia diciamo, della popolazione che della superficie. E perciò abbiamo scelto questo come tema di inizio di queste attività che come associazione vogliamo fare per questa ricorrenza. Per il resto penso che insomma, è inutile che mi dilungo, perché sarebbe meglio che guardiamo prima il documentario e poi ne parliamo, ecco, tutto qua. Io non vorrei poi prendere più tempo, almeno in questo momento. Passo la parola alla signora Rossi Nerhofer. Allora, intanto buonasera a tutti e ringrazio di cuore per l'invito di questa sera. Invito che ho colto con particolare entusiasmo e anche con gratitudine, perché la storia del piccolo paese d'Albania e soprattutto dei singoli albanesi durante la Seconda Guerra Mondiale è un capitolo che non voglio proprio dire, almeno per noi ebrei, dimenticato, ma spesso diciamo nelle varie commemorazioni trascurato. È un capitolo importantissimo ed è stato un evento eccezionale durante gli anni bui della Shoah e dell'occupazione nazista in Albania, un piccolo paese dal quale tutti gli ebrei furono salvati, tutti. Ci sono stati altri esempi, tipo la Danimarca, la Finlandia, in cui molti ebrei furono salvati, ci sono stati ancora altri esempi, tipo Rodi, da cui tutti gli ebrei furono deportati. Invece in Albania si salvarono tutti. E oggi è un'occasione importante anche per ringraziare questo paese, per ringraziare gli albanesi e i figli di coloro che, me da una parte sopravvissuta, grazie anche a persone non albanesi, ma che comunque hanno avuto questa, diciamo, questa umanità, questa giustezza di riconoscere il dolore e la sofferenza. E per questo anche l'Albania è stata annoverata tra le nazioni dei giusti. Io non mi vorrei dilungare molto perché, primo, non sono uno storico e poi penso che forse nel documentario saranno anche esplicitate delle situazioni particolari. Cioè, voglio soltanto aggiungere una piccola cosa fondamentale, che all'inizio della Seconda Guerra Mondiale in Albania c'erano 200 ebrei, alla fine della Shoah, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, scusate, dopo la Shoah, c'erano 2000 ebrei vivi in Albania, quindi decuplicata, in tanti paesi non ce n'era più neanche uno, in Albania la popolazione ebraica era duplicata, minimo dell'unità iniziale. Penso che partiamo col filmato. Jewish population than before the war. This is because the Albanian people protected and sheltered Jews reaching the country from all over occupied Europe, fleeing the atrocities of the Nazi regime and its supporters. As testified by survivors and historians alike, many Albanian families risked their lives for this noble mission. It was a cold November night in Germany, 1938, as Johanna Neumann recalls. The story really starts with the Kristallnacht, or Crystal Night, in Germany in 1938, November 1938, when the synagogues were burned down and Jewish stores were destroyed. And it was really at that point that my father, who until then could simply not believe that Germany would go against its Jews. He had been an officer in the First World War. There had been Germans for generations. and it was very hard. Not only for them, I would think probably for most German Jews to believe that such a thing could ever happen at all. After Kristallnacht, or Kristallnacht, he finally came to the realization that there was really no other way out except to leave Germany. And my little sister, 3.5 years old, was killed, and my mother was killed, the grandmother was killed. We, rest of the family, were rescued. We stayed some few days more in Sarajevo. After the funeral, we came back to Belgrade. In Belgrade, there were Germans already present. They occupied the city, they ruled the city, they imposed all the limitations for the Jews. We were obliged to wear the yellow band, yellow track, and we were not allowed to go to school. We were the men were taken to forced labor, so were the women. It was impossible to move anywhere without being watched or checked. There were checkpoints at every corner. How are you, man? Ishte, disa vjeqe ishte, mas shumë vështërsina një një vajzë. Edhe, atë në masi u kruboja vajza 2 vjeqe, erdi kjo puna e Gjermanit që i internoj. Kur dhe internuan atë, se fillun pasta me inda fmit nga prindrit, që ja morën halostime vajzën nga dora, që ajo me zjek ishte pa atë fmima sa vjetë e martes, ajo hala ime e shkreta, u qmendë. Filoj me vërtitë dhe morën, kushe di që alë kanë bërë, u qmendë. Si që regoj njërës, i ku mendja për i mërzis vajzës. Edhe ishte një vajzë që edhe vetë Gjermanët i thojshin pupishen, ka që të mi i bukur ishte. Jews lived in Albania and Kosovo working as merchants, doctors and craftsmen. In Albania, there are still Jewish quarters to be found in cities such as Tirana and Vlora, where they have synagogues. In Elbasan, there are still the remains of the Jewish market. Before the Holocaust, there were only 200 Jews living in Albania. During World War II, another 2,000 arrived. In Pristina, Kosovo's capital, the synagogue was built at the end of the 19th century, and the Jewish bazaar was the most famous in this part of the Balkans. Apart from their native languages, the Jews of Albania and Kosovo also learned Albanian, Turkish, and Serbian. Hounded and persecuted throughout continental Europe, Jews found a rare safe haven in Albania. Këto janë fjalët e saj. Ne ta hedhëm në Shqiprin me dokumenta falso. Në aty në kufi, ata e kuptuan që dokumentat tona ishin falso, me gjitha të në lejuan që të futeshin. Të baba im thot, mori me qira një kal, në hypën e fëmijëve të vegjël, edhe filluam të hecnim, me rrugë pa rrugë, desa arritëm në një fshat të humbur. Dhe atje morëm me qira një shtëpi shumë të vjetër. Në mes të natës, sot, dëgjuan trokitje të dera. Dhe menduan se ishin Gjermanët, në hiku gjaku, menduan që ky është e fundi. Me qëtë ato e hapën derën, dhe pa në ty një fshatar me gomar. A i fshatari, o malsori, ju hodhi një ses me miel, dhe pasën asë një fjalë, hiku u shduk në ersirë. Dhe unë tha, a i sesi me miel, në shpëtoj jetën. Dhe kjo gjitha në ka ndodhë gjatë gjithë kohë që kemi jetuar në Shqipëri. I mean, whenever a person in need would knock to a door of a villager in the middle of the night, and he would see that there is a family who needs help, he would bring them in, feed them, give them their bed, and shelter them, and calm them down. You'll be sure that, rest assured that something first will happen to me. They first kill me, and then they will touch you. These were the words that every one of us heard. I këm prej Mitrovice në Prishtin. Në ndimoj një familje kosovare, që unë isha 10 vjeqë, atëre unë nuk e mbaj mend as emrin, as kur gjohë. na čojne njina šatrate Kosovos. A te kam parasysh gjithmon atë ato ulurimat e qejve, ajo dbora, në kam me ec. Ishte vështirë shumë, po njeriu qa nuk banë për të shpëtu kokën. The London newspaper, Jewish Daily Post, wrote on the 14th of July 1935, "It has been a month since the Albanian diplomats in Europe have been implementing the order received from King Zog's government to issue as many Albanian passports to Jews wanting to go and live in Albania. According to the documents of the State Archive in Tirana, the Albanian king, Zog I, invited Jews to come to Albania as early as the 1930s. In order to assist the development of the country with their expertise. Most of them obtained Albanian visas, and some were even issued Albanian passports. In 1935, Albert Einstein benefited from Albanian hospitality to transit from Europe to America. He stayed in Durrës for 3 days in the royal mansion, and then, equipped with an Albanian passport, continued his journey towards the free world. Orders from King Zog were to the custom officers, whatever, the police at the borders, not to check Jews, just to let them come in. At any rate, we were fortunate to have visas, and as we found out, we were the only ones that had visas. Everybody else had come indeed through Yugoslavia on probably vacation, pretenses of being on vacation to Albania. And when we arrived in March, I think it was March 1st, 1939, much to our own surprise, we were received by other immigrants and found out that there were something like about 60 other Jews from Austria already there. During the war, Albania and Kosovo were initially under Italian occupation. The local Albanian government utilized its authority to the maximum by refusing to hand over lists of Jews to the German forces. The Jews found shelter in many Albanian households in cities, but when the threat grew too high from the occupying forces' frequent checkpoints, the Jews would go to the mountains pretending to be local shepherds. According to some, Besa, the Albanian sworn oath, with its duty towards guests, was one of the main reasons Albanians helped Jews in need. Dëgjoja shpesh nga i matë këto historirat e shpëtimit e ebrejve, po të zdo që më kalon dhe që afor, pranë veshit, sepse për mua më duke gjëja më e zakonshme, që ose ti ke një mik dhe ke një shok dhe ti e në rezik, nuk diskutoj që a i duhet të shpëtoj, dhe kjo nuk isha vetëm mund që e mendoja këshu si një gjë të zakonshme, po të shkosh edhe të intervistosh ata shqiptar që sot janë shumë të moshuar, dhe që kanë shpëtuar ebrejnë dhe ti pyesësh ata pse e bore këtë, fjala e parë që del nga goja e tyre është kjo është gjë e më natyrshme, të nuk mendoj që mund të jetë ndryshe. When several hundred Jews from German-occupied Mitrovica in Kosovo were deported to concentration camps in Serbia and later to Austria and Germany, the local authorities started to transfer Jews secretly to Albania. There, they could move more freely, and the remote Albanian mountains and isolated villages provided a safe haven for hundreds of Jewish families. I had some little experience that I remember. As a little boy, I just went out of my our apartment and went out to play on the streets. There was a field of wheat out there, and I was intrigued by the beauty of the wheat. It grows, it was a big and plump. And so I went down to the field and took a plume of wheat and looked at the grains, how they grow, how big they are. The farmer noticed it, an old man who was on the field, and came to me and said, "You see, we have guests here. And this is why God sent us a very nice crop this year." At the time, the Albanian Prime Minister, Mustafa Krija, wrote to the successor of the Italian king in Tirana, Francesco Giacomoni, and asked him to help in transferring the Jews from Kosovo to Albania, where they could be more protected. Krija actually went to Giacomoni. Giacomoni is a viceroy in Albania. At this point, he is still in charge. Obviously, the Germans had not occupied Albania yet in 41. And he went to Iacomoni and he told him, this is what we're doing. We're distributing these Jews among the Albanian people, etc., etc., gave them papers and names and so on. And Iacomoni said, go right ahead. I will not report this to Rome. And we have done this in some cases ourselves in Italy. On the 5th of April 1942, 100 Jewish families from Kosovo arrived in Berat, Albania, and 195 individuals went to Kavaja, Albania. A number of Jews were placed in Kruja, Tirana, Fier, Shijak, Shkodra, and elsewhere, the majority of them being employed in local shops, manufacture, and agriculture. In Berat, 38 Albanian families sheltered about 600 Jews arriving from 1942. From Dalmatia, Montenegro, Serbia and Macedonia came 350 Jews and over 400 from Greece. According to the Albanian Kanun, the Code of Conduct, the Albanian household belongs both to God and the guest. Nëni familje shkodrane, që quhet Shakir Borici, ky ishte bakal edhe ky më pyet mu një dit, po ti më i vajz pse merresh me këto biskota, pse i vjen ti këto biskota. Edhe unë si po në shmish i liftova të vërtetën që neve këshu jena të ardhur, nuk jena prej këtu, kena ardhur këshu, këshu, këshu, edhe jena të mshehur nga Gjermani. A i e mori vesh edhe në ndimoj shumë edhe kur kishte nevoje, kur s'kishte nevoje i blente biskotat. Edhe në Kastrehu, edhe në Kastrehu, në kishte shpisë shpje shkodranëve të madhe në Qarbak, edhe kishte një dhomë që e kishte lanë dispozicionin tonë, edhe aty rishim si të mshehur, se ato në embajshin sekretin, si fmit, si një vajzë u boshoqe me mu, se ishte moshatare me mu, edhe ato në kanë një mushu, deri sa u shliru vendi, pas taj s'kishim nevojma me u mshehë. Ne në shpinë tonë kishim edhe një histori tragjike. Motra e baba i tim ishte martuar në Korfuz. Korfuzi është një nga ishujt e Greqisë. Ajo ishte një vajzë e re 25 vjeç, ishte martuar me dy fëmijë të vegjël. Dhe në korrik të 44-s, do të thënë në prag të mbarimit të luftës, Korfuzi u pushtua nga Gjermanët dhe vetëm 7% e komunitetit ebraik të Korfuzit u kthye gjallë nga kampet e përqendrimit. Do më thënë 93% e komunitetit thjesht u zhduk. Ajo ishte një vajzere e bukur, gjyshi im dërgoj dikë nga Shqipria në Korfuz që ti thoshte hajde, se ne në Shqipri kemi miqë dhe mund t'i eshe sigur, dhe ajo i tha që unë nuk mund t'vje se buri im dhe familja e burit im dhe njerëzit të cilve unë u përkas janë këtu dhe nuk pranoj të vinte dhe dihet së fundi saj tragjik. Do me thënë, e kishim të eksperiencë tragjike në familje, por unë personalisht e kuptova këtë gjë vetëm kur erdha në Izrael. In Albania, some of the Jews were provided with personal documents giving them local Albanian names in order to hide their true identity from the Italian police and military. Yet it must be stressed that the Italians in Albania were not enthusiastic in chasing the newly arrived Jews. This situation changed at the end of 1943, after Italy's capitulation and the arrival of German forces. But by this time, the will of the Albanian people to protect the Jews also grew stronger. Të parë, dhe më thënë ata që ishin më pleqë shkuan në prefektur, u takuan me prefektin, dhe i qetësoj dhe i thënë, mos keni frikë për asgjë, se në qosë se marin ju e do në marin neve për para, pasandaj ju e. Pra, ndima e popullit shqiptar, e popullit vranja, ka qënë ja zakonshme për neve e brejnë e vlorës. Again, everybody knew we were Jewish. The Germans were all over the place. We had other immigrants who lived in other parts of Tirana. And nobody ever was threatened or was denounced to the Germans. It was just understood that we were Albanians and that was it. There are two main pillars to explain this level of protection for Jews in Albania. First, it was the Albanian people's solidarity with the Jewish refugees. And second, the friendly attitude of the Albanian authorities, in particular during the period of King Zog I and the Prime Minister Mehdi Frashëri. An agreement negotiated and signed between Prime Minister Frashëri and the German forces allowed Albania to pursue its internal affairs unhindered. In this framework, this government extended its responsibility for the protection of Jews as well. Forca erët e Gjermanët në Shqipëri, që okupuan Shqipëri, e që simbas deklaratave të ishin kalimpi në Shqipëria, në më thënë nuk ishin okupator. Dhe kjo do ishte arsyeja që marveshja ndërmjet Gjermanëve të shtetit ku ishin Shqiptar, që mos të prekeshin neve, do më thënë që shteti Shqiptar ishte i lirë të bënd të qëfar të deshte, do më thënë, kishe kompetencët e veta. I recall very clearly that some of the Yugoslavian Jews built their own boats out of wood, wooden row boats. They put outdoor motors on them and tried to escape to Italy. At this point, already part of Italy had capitulated to the Allies, so they could go to Bari and to Brindisi. Whether any of them ever made it or not is something that I certainly never found out. But again, the Pilku family came through every evening, and I accompanied them several times, would walk along the beach when they had heard that Yugoslavian Jews were trying to board these rowboats, put in provisions so they could survive at sea, and they would make sure that there would be no German control. Now, this is the end of the summer of 43 already. Most of the Jews in Kosovo were saved by the solidarity of the Albanian people and the mayors of Pristina, Hussein Pristina and Riza Drini, who did not allow the Jews to be handed over to the fascist occupying regime, organizing their safe transfer to Albania, where they were awaited in sheltering hearths. We must also mention Prank Uli, the secretary of Pristina district, who during World War II himself organized the safe passage of 52 Jews from Pristina to Albania. Those that they could not place fast enough, they put into a hospital in Pristina and said it was under quarantine because there was typhoid fever. And of course the German soldiers did not dare walk into that hospital. And those people were all safe because of the quick action of somebody like Mr. Kruger. The defeat of fascism in Europe meant a return to the homes the Albanian Jews had fled from years before. Some went to Israel after the war, invited by the Israeli authorities, but several dozen remained in Albania, where they had already established their families. Today, there are 10 Jewish families still living in Albania. George Kona, a Christian whose parents saved Elena Mosiu's Jewish family, married Elena after the war, and only in 1992 moved to Israel, where they live to this day. Violence. Jera nga vajzat Elena Uli, dhe vërshon të fakultetin në Tiran, fakultetin e gjuhët huja për anglisht, frekuenton të regullisht familjen time, si mish kim betëm, edhe kjo misi u forcu ma shumë, kur u bo lidhja martësore me disme edhe kësaj mojtë. Elena's cousins were among the only Jews in Albania to be deported and killed as a result of their communist beliefs, not their race. Për fat keq, in familjes babaj tim i ndodhë dhe më thanë gjëzëllarëve të mi, i ndodhë kjo gja, me gjithë në Shqipëri, të gjithë ebrejt, mujtën me shpëtu, për shkak të ndihmës madhe që i dha populli shqiptar, që të gjithëve. Fati i tyre i keq, edhe joni gjithashtu që të njelim pa njerëz të afër të familjes tonë. Chu felt sorrow upon leaving the people who had saved their lives and had treated them as members of the family. Many stories have been written about these noble actions of the Albanians, whose names are now carved on the memorial in Yad Vashem in Jerusalem. Δεν βρήκα γυθμόν εξιστόντε. Φρήκα γυθμόν εξιστόντε. Σε μος νοητή τμήρ δονα μέρνη έδωνα ίντερνόλη. And I have to tell you, when I think about it, that feeling of fear never leaves you. That feeling of fear I can feel to this day. There's always the fear. Somehow they would find out and we would, you know, we would be caught by the Germans. Well, God was good, the Albanian people were good, and we were safe. More than 60 years have passed since the end of the Holocaust, but the heroism and humanity of the Albanian righteous among the nations will always be remembered by the survivors and their descendants alike. Mrs. Irene Grunbaum, one of the most famous Holocaust survivors, recounts her memories in Albania with these words. Goodbye, Albania. You offered us so much hospitality, shelter, friendship, and adventure. Goodbye, Albania. One day, I shall tell the whole world about how brave, loyal, and generous your sons are, putting their lives on the scale of death in order to save ours. Ku kam qenë mund të them në moshën 5 vjeç, kam qenë në rrugë me mamën time, hecnim dorë me dorë, dhe dëgjoj një zëm nga largë, dhe thëriste, bule, bule, unë ktheva kokën, dhe rrugica shumë e vogël, shumë e ngushtë, dhe nuk ishte as njëri tjetër përveç nesh. E marë mamën nga fustani, dhe mama, mama, është një grua këtu mbrapsh, që bërtet bule, but unë nuk shof as njëri tjetër. Mama ime këthen kokën e shikon këtë gruan. Dhe që të dyja fillojnë të qajnë, fillojnë të përqafohen, dhe unë mbeta. Nuk e kuptoja pse kjo gruaja e thiri maman time bule. Bule ishte emri i mamas time në fshat. Emri saj ka qenë Nina, emri izraelit. Por emri saj shqiptar ka qenë Bule. Kjo është një histori e vogël që por e kujtoj me rënditet mishi, but sidoqoftë, kjo është një shenjë që shqiptarët shpëtuan izraelitët dhe ata të tre vllazërit ka qenë shumë njerëz bujar. And as the saying goes, whoever saves one human life is as though he saves the whole nation. The fact is that if you want to take a picture of what it means to save one life, these are my children and grandchildren and great-grandchild, which wouldn't be here if it hadn't been for Albania. Io l'ho visto più volte e mi commuovo sempre, devo dire. Anche forse perché ho vissuto una storia non così drammatica, ma comunque quando sono arrivato in Italia anch'io ho avuto l'ospitalità delle persone che mi fa sentirmi più vicino a delle persone che hanno sofferto più o meno la stessa cosa, anche se noi non rischiavamo nulla in termini di vita, però abbiamo trovato per esempio a Brindisi una solidarietà che non l'ho mai visto nella mia vita, insomma. E perciò penso che lo sento anche un po' di più, forse perché l'ho provato nella mia vita, cosa vuol dire andare in un paese dove non conosci nessuno e che trovi della gente che ti aiuta senza nessun interesse, senza nessun, persone che, come ha detto anche la signora, non li vedrai più nella tua vita. No, il documentario è realizzato, non so, 2 anni fa, insomma, non penso. Praticamente c'è stato un fotografo, un ebreo americano, che si chiama Norman Gershman, che è stato il primo che ha scoperto, perché questa storia, sono tanti albanesi che non lo sanno, nel senso che ognuno sapeva, anche di quelli stessi che avevano aiutato gli ebrei, sapevano di aver aiutato una famiglia, ma non sapevano che questa cosa era una cosa collettiva, dal primo ministro all'ultimo contadino, perché durante il comunismo di questa cosa non si è mai parlata. Io non so perché, la spiegazione che posso dare è il fatto che il governo comunista era un governo filo-palestinese e perciò non... Questa cosa è stata scoperta da questo fotografo che, almeno per quello che io ho letto, si è messo casualmente in contatto con più persone in America che erano salvati, come la signora, che è stata quella che ha poi tessuto tutto, ha creato la rete, perché poi il fotografo è riuscito a mettere in contatto anche le famiglie, o gli eredi, o le persone stesse che avevano salvato, con le famiglie che non si vedevano da 70 anni. E loro hanno fatto il primo documentario. Questo documentario va un po' a ricalcare sulla storia che il fotografo, lui ha fatto anche una bella mostra fotografica che c'è stato qua. Io sapevo a Bologna, ma la signora Rossi Neroff mi diceva che l'ha visto anche a Venezia. E loro hanno fatto anche un documentario che mi risulta che non sia neanche in vendita, il documentario. E questo un po' ricalca la stessa, però i due ragazzi che l'hanno fatto sono due, un regista e un giornalista kosovaro, se non sono kosovari tutti e due, che hanno raccontato poi questa storia andando nelle famiglie albanesi che oggi si sono, dopo il 91, anche quelli che erano, cioè alcuni sono andati via perché di passaggio, come era anche il caso di Einstein, insomma. E alcuni si sono fermati in Albania, hanno vissuto tutto il periodo del comunismo, poi nel 91 ovviamente per ragioni economiche si sono andati in Israele, e oggi, come diceva lì, sono 10 famiglie, però la signora mi diceva che risultavano ancora di più, cioè circa 200 persone. Sì, tra le 150 e le 200 persone a Tirana, cioè così perlomeno risulta a noi. Poi così ufficialmente oggi, e appunto volevo un attimo sottolineare questa cosa di Norman Gershman. Io la prima volta che sono venuta in contatto appunto con la storia degli ebrei salvati dagli albanesi è stato, mi sembra, nel 2008-2009 a Venezia. C'era questa mostra di Norman Gershman, che poi dopo è stata, non direi una sciocchezza, non so se prima o dopo è stata anche a Bologna, però diciamo Gershman la propose la prima volta nel 2007 a New York, al Palazzo di Vetro, dopodiché è stata subito presa anche dallo Yad Vashem a Gerusalemme. E mostrava esattamente, molto nel dettaglio, una mostra molto interessante, di come ha testimoniato tutta l'evoluzione del salvataggio degli ebrei in Albania. E lui diceva, perlomeno io mi correggerà se sbaglio pronuncio, che poneva molto l'accento sul fatto che questo codice Canun, diciamo molto molto ferrato nella cultura albanese, grazie a Dio, fino anche all'inizio del XX secolo, aveva ancora forti radici nelle persone. È proprio in base a questo codice che obbliga praticamente un individuo a salvare la vita di un innocente o di un perseguitato, anche a costo di rimetterci la propria, che come diceva appunto prima il signore, sia dalle istituzioni, cioè dai ministri o dai prefetti, fino al più umile contadino, si sono opposti a questo volere all'occupazione del Terzo Reich. E se si pensa, sono stati deportati ebrei da sotto le finestre del Papa, ma dall'Albania no. Lì in questa mostra anche c'erano dedicate appunto alcune biografie di persone che sinceramente adesso con gli anni non mi ricordo, però era mi rimase impresso la storia di un commerciante che per salvare all'ultimo minuto un amico ebreo da dei tedeschi lo fece ubriacare proprio così nella sua, facendosi passare ambedue per due albanesi insomma che gozzovigliavano in una serata e tanti altri casi appunto travestiti da contadini, portati sulle montagne, inseriti bambini nascosti insieme ai propri figli. Insomma, è stato una cosa che all'epoca mi colpì molto e oggi come cittadina italiana, europea, ma soprattutto come ebrea, non so, devo dire fortissimo il mio grazie a questo piccolo paese, veramente grazie, ed è come minimo abbiamo il dovere di ricordarlo e di ringraziarlo ancora. E, non so, poi tante parole effettivamente oggi possono anche risultare banali, io lo sento in particolar modo perché anche nel mio caso personalmente no, ma per quello che ha riguardato la famiglia di mio padre, se dei contadini, in questo caso italiani, non l'avessero nascosto, io oggi non sarei qua a passare questa serata con voi e con me e tanti altri. Sì, penso che non ci sia altro da aggiungere, che insomma il documentario sia stato più che... C'è nell'altro documentario il fotografo Norman Gershman faceva raccontare e si sentiva una signora ebrea che raccontava il momento, perché ovviamente si sottolinea anche in questo documentario che il periodo più brutto era quando sono arrivati i tedeschi, che li hanno dovuto in gran parte mandare su per le montagne. E allora quando si dovevano spostare, raccontano tutti e due, da un lato racconta la signora ebrea che era stata accompagnata da questi due fratelli albanesi che accompagnavano tutta la famiglia, e che raccontano il momento quando praticamente stavano uscendo dalla città, c'era un checkpoint tedesco e che erano lì e lui usa un termine albanese per dire che stavo tremando, insomma, nel momento quando poi si è alzato la sbarra e la macchina ha potuto passare e si sono liberati. E lo fa raccontare questa storia sia della signora ebrea che dell'albanese che l'ha accompagnato. Poi loro però premono molto, infatti il titolo, se non sbaglio, del documentario loro è "Come dei musulmani salvarono degli ebrei". Personalmente, cioè, ovviamente che fa più in questo momento, fa più colpo, insomma, sto fatto qua. Io non penso che c'entri nulla l'essere musulmano. Infatti anche nei nomi dei giusti albanesi che scorrono ci sono anche nomi cristiani ortodossi come cristiani cattolici, cioè si rispecchia un po' la popolazione albanese, e il fatto religioso non, secondo me, non c'entra per niente. Anche ci perché sono... c'era una bella coesistenza in quel sì, sì, ma in Albania, c'è tuttora. Infatti io ripeto, io voglio fare una serata proprio anche per questo, perché se c'è una cosa che io ritengo, come dicevo prima, è già la seconda, non se c'è una cosa. No, vabbè, comunque voglio dire che io penso che noi possiamo insegnare al mondo anche la convivenza religiosa, nel senso che da noi non ci sono mai stati problemi, né prima del comunismo, né durante, né dopo, non ci sono tuttora. La gente si sente prima albanese e poi insomma cattolica, ortodossa o musulmana. E io penso che da questo punto di vista la parola più bella l'abbia detto Montanelli, che quando è andato nel periodo dell'occupazione italiana dell'Albania, lui ha suo padre era un impiegato dell'amministrazione italiana in Albania e lui è andato in Albania e il suo padre gli aveva trovato delle guide, insomma, per quando faceva il viaggio in Albania. E quando lui stava nella parte, diciamo, bassa, costiera, c'era un albanese ortodosso che si chiamava Cristo di nome, un nome comune ortodosso degli ortodossi albanesi. E poi a un certo punto, quando poi doveva andare a vedere le montagne, è arrivato un altro guida che lo doveva accompagnare. E nel momento quando, insomma, si sono date le consegne, l'altro era un musulmano che si chiamava Muhammad. E allora lui diceva, io, perché questi camminavano davanti e lui camminava dietro, perché insomma il canun vuole che sia chi guida a correre il pericolo e non l'ospite. Allora questi camminavano davanti, lui dietro, e lui dice che io per la prima, l'unica e l'ultima volta della mia vita ho visto Cristo e Maometto a camminare uno a fianco all'altro. E poi dice una frase bellissima dove dice: ma questa cosa qua è una roba di tutti i giorni. Ed è veramente così, secondo me è l'espressione più bella per raccontare la coesistenza religiosa, la convivenza religiosa in Albania. Infatti lei ha detto una cosa molto giusta, ha detto ospiti, infatti sempre per questo codice canun gli stranieri in Albania sono ospiti, non sono stranieri, sì. È vero? Giusto? Sì. Non so, chiedo scusa. Comunque il canun è... No? Sì, Mick, sì. Mick è l'ospite. Il canun comunque ha anche i suoi lati, diciamo, perché ovviamente è un codice creato nel Medioevo, sì, sì, per regolare i rapporti tra le persone in mancanza di un'autorità, insomma, esatto. E ovviamente ha avuto i suoi lati buoni, sì, come in questo caso o anche in altri casi, come poi insomma, sì, lì l'onore si... Beh, guardi, da noi si dice si lava col sangue, e si perciò lava questo anche da noi una volta col certo, sangue succedeva lì. Anche le fai della vendetta. Il dolore non è tanto tempo che anche da noi. Anche matrimoni che sono misti. Sì, ma quello c'era già prima, durante il comunismo ovviamente era anche agevolato, ma questo non è tuttora oggi. Io dovrei essere un musulmano, cioè il mio cognome è Muftiu, che sarebbe Mufti, praticamente, probabilmente qualche mio antenato svolgeva questa professione, insomma, e mio fratello ha sposato una cristiana, una cattolica di scooter, insomma, cioè i matrimoni misti sono sono una normalità, non... È il mullah. Cioè è un po' come il vescovo che copre un determinato territorio, insomma. Allora, paradossalmente gli ebrei sono stati meglio in questo periodo, dove comunque era un regime collaborazionista, no? Il regime di Herzog, piuttosto che... No, il Herzog era prima, cioè quando c'era il Herzog l'Albania era indipendente. E Herzog si presuppone dai documenti che si sono scoperti negli archivi albanesi che avesse in mente di attirare gli ebrei per sfruttare come si dice, le loro conoscenze, le loro capacità per poter sviluppare l'Albania, perché anche questa è una delle pagine della storia dell'Albania che non si parla. Durante il comunismo lui era il dittatore, il satrappo, la negatività in persona, e invece è stato il fondatore dell'Albania moderna, cioè lui stesso da musulmano ha sposato una cattolica, giurando su Corano e sulla Bibbia, non andando né in chiesa né in moschea, escludendo la religione completamente dalla scuola, tanto che oggi in Albania non si pone, non si è mai posto neanche il problema dell'ora della religione, per esempio. Cioè, la religione è completamente fuori dalla scuola, è una questione privata di ognuno, chi vuole va in moschea, chi vuole va in chiesa, chi vuole va dove vuole. Però a scuola non c'è, la religione non c'entra, e questa cosa qua, tutti i codici, cioè l'ammodernamento, magari l'Albania era, poi dice la Johanna Neumann, dice una cosa bellissima, l'Albania era molto arretrata nei confronti di tutta la struttura che lui dotò, cioè i vari codici mercantili, i codici civili, penali, che erano in sostanza comunque prodotto anche degli studiosi italiani, perché in quel periodo praticamente i rapporti erano molto, molto stretti, insomma. E lui aveva questa sua idea. Poi il 7 aprile del 39 l'Italia occupa l'Albania, Re Zogu va in esilio, e poi sono gli italiani che dal 39 al 43 sono in Albania, poi dal 43 al 44 sono i tedeschi. Comunque anche diceva, mi sembra che c'era un governo collaborazionista in questo periodo che anche ha appoggiato. È stato trovato, perché ripeto, il periodo tedesco, cioè dell'occupazione tedesca, era quella più dura per gli ebrei, dove veramente, insomma, era si è trovato negli archivi un documento dove il responsabile tedesco per i Balcani sud-orientali gli chiedeva al primo ministro, cioè, i nomi, gli elenchi degli ebrei, e lui li ricordava con la sua risposta che il governo albanese aveva una certa autonomia e questo compito li spettava loro, che quando ci saranno i tempi, quando si matureranno i tempi, li porterà alle autorità i nominativi, che ovviamente non furono mai dati perché i tedeschi, per non avere problemi quando erano in ritirata, allora in Albania hanno dichiarato che noi non siamo qua da occupatori, noi siamo di passaggio, perciò voi continuate. Infatti mio nonno ricordava che il 28 novembre, la ricorrenza dell'indipendenza dell'Albania, come si è festeggiata quell'anno quando c'erano i tedeschi, non si è mai festeggiato in Albania, proprio per dare il segnale che voi siete un paese indipendente, potete fare quello che volete, noi siamo qua perché stiamo passando. E perciò al governo gli veniva data una certa autonomia nel gestire gli affari interni, e che il governo l'ha sfruttato in quel caso anche per non consegnare gli ebrei. Scusa, credo che sia stata istituita anche in Albania il giorno della memoria, come da noi. Sì. No, io volevo solo fare una riflessione. Vedendo il filmato, pensavo a quello che ha scritto e a quello che poi è successo in Italia con le leggi razziali, Sarfatti, italiani in brava gente, se lì dagli albanesi appare l'aiuto. Direi l'eroismo individuale e collettivo di un popolo, bisogna dire che per noi italiani, anzi non per noi italiani, per gli italiani che ci hanno anticipato, voglio sottolinearlo, gli italiani, dobbiamo pulirci la nostra coscienza di parecchie cose, perché siamo i responsabili delle leggi razziali, siamo quelli che certo hanno aiutato gli ebrei, ma ci sono anche quelli come ha scritto Sarfatti, appunto, che hanno denunciato gli ebrei, i loro concittadini. Quindi la nostra realtà è una macchia che non dobbiamo pulire, anzi, mi dispiace dire queste cose, ma la storiografia non fa ancora i conti in Italia su questo tema. Tutto questo crea il revisionismo, tutto questo crea i siti nazisti. Stasera andavo un po' girando su internet anche per capire bene il fenomeno, e ci sono dei siti nazisti dove appunto ci sono anche battute sugli albanesi che hanno salvato gli ebrei, eccetera. Io, per chiudere, ricordo un particolare qui proprio accaduto in Alto Adige, anzi due particolari. Uno è citato da Steinhaus nel libro Ebrei Juden, che consiglio di leggere, perché è un libro molto bello, dove racconta, ora non mi ricordo il cognome, addirittura la drammaticità, il dramma di una donna ebrea che viene denunciata da un marito che era cattolico. Dopo la guerra la comunità ebraica di Merano l'ha denunciato, in questo momento mi scuso, non mi ricordo il nome, però il fatto è riportato proprio nelle pagine finali. Tra parentesi, il signor Pall, il signor Pall, sempre in quel libro, forse lo ricordate, fu il vicepresidente della, della giunta provinciale, tanti anni fa. Viene riportato sempre da Steinhaus nel libro Ebrei Jugend, disse che beh, i sotterroristi devono ringraziare gli invasori tedeschi perché hanno ripristinato la lingua e la loro anima. Chiudo la parentesi. Se mi ricordo, un altro molto interessante, una signora molto anziana di Merano, Merano è la zona di guerra, quindi perse parecchi ebrei della, della comunità, ricordava che una delle poche ritornata dal campo di concentramento incrociava sulle bellissime passeggiate del Bassino una dei suoi aguzzini nei campi di concentramento. Ecco, questo mi sembra molto, molto significativo. Quindi molto belli questi filmati, ed è anche giusto che si vada avanti con la ricerca, però confrontiamoci noi italiani sulle nostre vecchie, perché sicuramente non solo nei confronti degli ebrei ma anche in Africa non siamo stati, per parafrasare Sarfatti, brava gente, non dimentichiamo. Lei dice, la signora, la Johanna Neumann, nell'altro documentario, perché ovviamente adesso con col documentario loro vanno nelle scuole a far vedere questa cosa qua, e lei dice una cosa molto bella, almeno per noi albanesi, insomma, ovviamente, dice che io venivo da un paese com'era la Germania, cioè molto civilizzato, acculturato, un popolo che aveva dato al mondo un sacco di artisti, filosofi e scienziati, però che in quel momento aveva toccato moralmente il punto più basso che si poteva toccare. Invece siamo andati in un paese piccolo, quasi tutto analfabeti, cioè gli abitanti, che insomma non aveva dato al mondo tutto ciò che i tedeschi avevano dato, ma che moralmente stava molto, ma molto più in alto, diceva in questo altro documentario. Anche questa è stata un'esperienza, sono stata in Albania circa 2 anni fa e ero all'università di Kukës. Kukës è una regione che, anche se è contraddistinta, è stata qualche anno fa, credo 2006, è stata nominata per il premio Nobel per la pace, perché per l'accoglienza dei kosovari. E allora eravamo all'università quella sera e uno dei ragazzi dice: ma voi che venite dall'Europa, cosa voi pensate? Noi possiamo essere parte della comunità europea. Allora noi avevamo appena saputo di questa storia, perché non è appunto molto conosciuta, parlo del 2010. Allora quando io ho saputo questo ho detto sì, per la sola ragione di essere persone moralmente in ordine, si dovrebbe fare il tappeto rosso per farli entrare. Altri non hanno questo peso morale, questo addirittura così forte. E anche mi piacerebbe, se lei ha opportunità, di spiegarci esattamente che cos'è il significato della besa. La parola data, praticamente. Rispettare la parola. Cioè rispettare la parola data, questa è la bessa. Quando si dà la bessa, allora tu hai certi obblighi, fa parte, è una delle istituzioni del Canun. Praticamente, un esempio, le due famiglie che erano in vendetta, per dire, cioè nel senso che c'era la faida in corso, poteva andare una terza famiglia che ne so, doveva fare un matrimonio e lo doveva che ne so, ospitare l'altra famiglia che doveva passare praticamente per il territorio dove loro controllavano, e allora andava dall'altra famiglia e chiedeva la loro bessa, che non avrebbero toccati finché si faceva sta cerimonia, insomma. Allora gli altri davano la bessa e guai se non la rispettavano, perché nel caso contrario il canun prevedeva che tutto poi il paese li si rivoltava contro. E questo era il senso della parola. Uno poteva dare la bessa per qualsiasi cosa, nel senso che diceva questa, cioè uno gli chiedeva che facesse questo e lui ovviamente riteneva di darlo o di non darlo, però una volta dato, insomma, era una cosa che era molto più sicura di qualsiasi firma su qualsiasi pezzo di carta oggi. Era una parola, sempre stata una parola. Cioè non era una firma, era una parola. Come una parola d'onore. Esattamente. Sì, è una parola d'onore. È una parola d'onore, ma il codice stesso è un codice che c'è stato, è un codice che non era un codice scritto, era un codice orale trasmesso da generazione in generazione, che praticamente è stato poi un gesuita, se non sbaglio, Stefan Gietschow si chiamava, che ha fatto la raccolta che è la raccolta più, diciamo, completa di questo codice, ma il codice in sé non è un codice scritto come il codice che usa il giudice per... Però non lo enfatizziamo più tanto, perché no, il questo... canon contiene delle norme sì, arcologiche. L'ho appena detto, però ancora oggi la Costituzione è veloce, l'ha eliminato, però poi è stato ripristinato ancora oggi in alcune zone. Sì, no, questo succede perché quando manca lo Stato è la cosa, sì, beh, o qualsiasi dittatura, anche Mussolini aveva eliminato la mafia. Bravo. Era il famoso prefetto Mori, insomma, che fece terra bruciata. Di quando il prefetto Mori tentò di intervenire sulle, lo presero e lo chiamarono a Roma e lo fecero diventare senatore, quindi non è vero che lo registrazione. Mussolini non ha combattuto la mafia, stiamo calmi. Promoveato. Ma anche qui ci stanno provando. No? Beh, non facciamo questa lezione. Pensavo solo una cosa, che effettivamente, sentendo parlare così dell'Albania, che non conosco molto bene, mi vengono in mente però tutta una serie di elementi comuni con l'antica Grecia, perché il codice dell'ospitalità era molto forte, aveva anche quasi un senso religioso di rispetto per la persona che veniva da fuori, veniva accolta, veniva assolutamente gestita e favorita in tutto e per tutto, insomma, quindi non veniva considerato un estraneo, ma veniva accolto e soprattutto tutto quello che si poteva fare, compreso salvare la vita. E dall'altra, quindi aveva un aspetto anche sacrale, dall'altra anche questa trasmissione orale di questi codici è quasi un'applicazione di tutta una serie di saperi, di conoscenze che implicano anche un forte controllo sociale laddove manca, no? Perché anche l'antica Grecia era fatta di tante piccole realtà che non avevano un coordinamento fra di loro, e questo si ripercuote anche, si ritrova spesso nella storia dei Balcani, no? Di transito, di grandi passaggi, di apertura, tutto sommato anche di un atteggiamento abbastanza laico e di accoglienza però nel confronto di altre regioni che convivono, e nello stesso tempo però hanno dei codici abbastanza forti che vengono trasmessi un controllo sociale. Questo si ritrova anche. Sì, no, comunque noi in Albania oggi si sta cercando, perché oggi vediamo l'aspetto più negativo di questo, ci sono centinaia di famiglie che stanno chiuse proprio per queste faide, e si sta cercando in qualsiasi modo di insomma riappacificare per poter, perché non c'è, non escono fuori solo le donne a lavorare, i maschi sono costretti a stare, cioè bambini che non, perché poi si è anche imbastardito, se posso usare questo termine, il codice stesso, perché comunque il codice prevede che non possono essere toccati i bambini, e bambini per il codice non c'era, non aveva età, cioè tu eri un soggetto della faida nel momento che a un certo punto, in un modo quasi un'iniziazione, uno un bel giorno la famiglia dichiarava che questo qua sparava per aria, e da quel giorno lì era adulto, e questo poteva capitare quando avevi 8 anni, per dire, esagero, come quando avevi 40. Però ovviamente finché non avevi sparato per aria, non avevi, cioè non eri soggetto, non eri un uomo, detto tu non avevi il diritto della parola neanche nel, cioè quando gli uomini giudicavano le questioni importanti del paese piuttosto delle decisioni che riguardavano la vita, diciamo, comunitaria. Invece lì si tratta di bambini che non hanno mai sparato e comunque sono soggetti e non possono andare a scuola, sono veramente delle situazioni che sono, insomma, abbastanza pesanti, anche se si sta lavorando da anni, e ovviamente il fenomeno, perché poi dopo il 91 si è passato da un estremo all'altro, da uno Stato che controllava tutto a uno Stato che praticamente era inesistente in certe zone, e ovviamente la mancanza dello Stato fa poi venire fuori, cioè, perché in un modo si devono regolare e allora iniziano a venire fuori queste cose che, cioè, insomma, dette così sono veramente nel loro lato positivo che abbiamo visto nel caso della salvezza degli ebrei, sembrano delle belle cose, però ovviamente c'è l'altro lato che non prevede 2 mesi di carcere al condizionale, ma prevede che se tu offendi uno, l'altro ti deve prendere la vita. Insomma, non mi sembra il massimo della... Mi ha sorpreso anche quando nel filmato si parlava degli ebrei che si sentivano più tutelati in Albania rispetto a restare a Belgrado, a Pristina, dove comunque c'erano un regime che li proteggeva. Allora, a Belgrado sicuramente, a Pristina comunque all'epoca, perché quando l'Italia ha occupato l'Albania e i tedeschi hanno occupato la Jugoslavia, si è creato più o meno quello che, ovviamente, come i tedeschi, si cerca di assecondare i desideri, dal momento che tu controlli tutto il territorio, sei l'occupatore e hai occupato sia la Jugoslavia che l'Albania, e gli dici agli albanesi: cosa volete per star buoni? Ah, noi vogliamo il Kosovo. Ok, to il Kosovo, adesso siete uno Stato col Kosovo, sei sempre sotto occupazione tedesca, però cioè, l'amministrazione era albanese e il capitale per Pristina era Tirana all'epoca. Ovviamente non c'era tutto il Kosovo, il nord del Kosovo era rimasto comunque sotto controllo tedesco, e perciò, insomma, più vicino ai tedeschi si stava quando c'erano gli italiani invece nel resto dell'Albania. Era questo il senso, che poi la gente da Belgrado scendeva a Pristina e da Pristina veniva giù verso l'Albania. Questo non lo so. Quanti ebrei ci fossero a Belgrado, però dal filmato e comunque dalla documentazione un bel po' di ebrei dell'ex Jugoslavia sono venuti giù, non so dalla Grecia, perché comunque anche io so che a Salonico c'è stato anche una strage di, nell'arco di 3-4 giorni sono spariti 5.000-6.000 ebrei, insomma, dalla città di Salonico e dintorni. Tutti quelli che c'erano. Prego. La reazione dei tedeschi come era? Non si accorgevano i tedeschi che lo Stato albanese cercava di Probabilmente si accorgevano, ma comunque erano anche, cioè non avevano, io questo non lo so dire, quello che si sa è solo quello che è successo, come anche loro dicono eravamo sotto, c'è poi nell'altro documentario che dicevo, che poi questi qua hanno ricalcato, raccontano proprio che in una casa sopra stavano la famiglia albanese con la famiglia ospite ebrea, sotto stavano i tedeschi e i camion tedeschi, e i bambini giocavano tra gli armamenti che c'erano nel cortile. Non so come sia funzionato, sicuramente tutti sapevano, lo dice anche la Neumann, la Johanna Neumann nel documentario, che tutti sapevano, nessuno parlava, e questo è, diciamo, il miracolo di questa storia qua, che praticamente tutti sapevano, tutti li difendevano, nessuno diceva nulla, perché ovviamente c'era un governo che collaborava, però non ha accettato di collaborare più di tanto, almeno per quanto riguarda questa questione e anche altre questioni. Poi penso che anche i tedeschi stessi, essendo in ritirata, non avevano interesse di avere diciamo problemi con la popolazione locale, dal momento che questi li difendevano, ovviamente che se si mettevano a insistere su questo fatto qua avrebbero avuto anche la reazione, insomma. Noi abbiamo preparato una bibliografia, abbiamo dei libri che raccontano, insomma, la storia dell'Albania e comunque la storia anche della Seconda Guerra Mondiale nell'Europa orientale, per cui se qualcuno ha il piacere di approfondire queste tematiche, siamo a disposizione. E vi ringrazio. Grazie a voi.